Eccoci. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buongiorno a tutti cari miei amici convocati, vi aspetto numerosi come sempre, 800 24 0024 è il numero verde, Giorgio De Luca è il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Giovanni Macchione in redazione, siamo tutti qui ad aspettare le vostre voci, ad aspettare di tuffarci nella quinta giornata di campionato senza prendere il fiato, questa sera in Udinese-Milan, di cui poi parleremo anche sentendo le voci di Mihajlovic. Ma Balotelli può giocare trequartista? Ah, ma se lo dice Berlusconi, sì. Può giocare trequartista Balotelli? Secondo me no. Magari stasera lo vedremo, però nel suo ruolo naturale, quello di attaccante, accanto a Bacca e al posto di Luis Adriano, cui Mihajlovic potrebbe concedere un turno di riposo, cosa che farà certamente perché ha già parlato Max Allegri in casa contro il Frosinone, concederà un riposino a Gigi Buffon e dunque giocherà Neto in difesa della Juve. Sempre per restare alla cronaca, se vi pare, pessime notizie per il Verona, ma l'Inter quest'anno gira davvero tutto bene, eh? Pessime notizie per il Verona perché Toni si è fatto male, starà fuori 2 mesi, Marquez starà fuori 1 mese, dunque il Verona domani a San Siro contro l'Inter capolista senza 2 dei suoi giocatori più importanti. Poi nella Roma invece guardate chi torna, Dzeko. Ma perché è uscito? Giocherà naturalmente domani titolare. Il Napoli ha qualche dubbio con Hamsik, è una partita determinante perché lì servono conferme. Ieri ci siamo un po' sbilanciati, almeno Pardo l'ha fatto, ma io concordo. Napoli da scudetto, ve l'ho visto contro la Lazio. Secondo me serve qualche altra riprova, però insomma, quello visto l'altra sera è stato qualcosa di impressionante. A proposito di romanzi di Sampdoria, domani sera, come sapete, c'è Sampdoria-Roma. Per il presidentissimo Ferrero una specie di derby, lui romano e romanista che riceve a casa sua. Pino da Roma è già in linea, 800 24 0024, riceve a casa sua la sua Roma, sentiamo cosa ha detto. Come tutti i club, no? Nelle nostre case è il nostro forte, per cui vogliamo sempre mandarli via con un risultato negativo, perché se vengono a casa e ci servono pure 3 punti, siamo del gatto. Siamo del gatto. A proposito di gatto, oggi mi sono letto con enorme gusto l'intervista del mio amico Andrea Sorrentino su Repubblica a Giovanni Trapattoni. Molti hanno accostato l'Inter di Mancini a quella tedesca del Trap. Secondo me squadre diverse, passato molto tempo, difficile fare paragoni epocali, anche se quest'Inter qualcuno ha accostato al Milan di Capello perché non prende mai gol, vince 1-0 eccetera, quel Milan aveva probabilmente più qualità. Certamente sono tutte squadre attente e muscolari. Ieri Orrico ci diceva che questa Inter è molto più sofisticata dal punto di vista tattico e dal punto di vista così della costruzione rispetto a quelle squadre. Trapattoni dice: ognuno fa il vino con l'uva che ha, lui sta vinificando bene, riferito a Mancini, rischia poco e poi fa gol, non è un risultato casuale. Sa cosa mi dicevano i contadini una volta? Nella vita servono 2 sacche, una per prenderle e una per darle, e poi via via via via con tanti aneddoti, tante e una verità che pochi hanno sottolineato fin qui. L'Inter è una squadra che, è vero, vince 1-0, fa pochi gol, però non ha mai grandi difficoltà a trovare quel gol, e fa bene Trapattoni a sottolineare la grande qualità degli attaccanti dell'Inter. Non servono molte occasioni a questi per sbatterla dentro, a differenza di quanto accade per il Milan, dove invece servono molti tiri in porta, gioco più elaborato eccetera. Questa è una grande verità del Trap che sottoscrivo. Sempre su Ferrero, ne ha avuto anche per lo yacht di De Laurentiis che ha preso fuoco. Adesso De Laurentiis si è bruciato lo yacht l'altro giorno, ha saputo? Che è successo? Gli si è bruciato lo yacht. Ah sì? E come si va a bruciare lo yacht? So. Hanno yacht che sta dentro l'acqua. Non so, c'è stato un incendio. Ah, mi dispiace, si sono salvati tutti. Sì, sì, sì, anche lui. E allora che va bene così. Poi sentiremo anche Florenzi sulla follia del turnover, per cui Garcia è già sotto inchiesta, se si vuole, perché ha sbagliato tutto, diciamoci la verità, nella partita con il meraviglioso Sassuolo domenica. Prima del traffico vi faccio sentire un'altra cosa presa da Tiki Taka, Pardo arriva dopo in ore affaccendato, poi gli chiediamo come, dove, quando. Sta andando a Udine, ha avuto problemi in un finestrino della macchina, poi ci facciamo spiegare tutto. Però, allora, ieri sera a Tiki Taka, Mughini e Bonolis, l'un contro l'altro. Piuttosto volevo notare, ma lo dico con grande simpatia per gli interisti e per il loro entusiasmo, io all'università ho fatto 3 esami di letteratura italiana e ho dedicato allo studio della Divina Commedia meno tempo di quanto voi ne state dedicando alle 4 partitine dell'Inter. Questo tanto per la precisione. 4 partitine. Semplicemente perché con grande simpatia, ma poi per carità. 4 partitine. Ma che dobbiamo fare? Io all'università ho studiato sia diritto penale che civile, parliamo della Juve. Esatto. No! Ma non Ma che tempo di fare? Perché... Tutti convocati. Tutti convocati. Vediamo un po' Pino da Roma, buongiorno. Grazie di avermi convocato, mi dispiace che non c'è il nostro amico Pardo. Come no, c'è. Perché... c'è Pardo? Dov'è? Eccolo, ecco. Ho visto che è arrivato per tempo. Ciao Pardo, ma abbiamo anche un altro ospitone. Lo saluto subito, volevo Davis dire, Mangia, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, quindi ha visto Pino, più di così. Bene. Che vuole di più? Volevo dire, ieri sera ero nero per 2 motivi precisi. Uno... perché Pardo, Higuaín sono della Lazio e mi ha lacerato il cuore, e in più ero ancora più nero perché non mi era arrivato un bonifico. Però vi devo dire la verità, a me Pardo mi fa ridere, mi è passato tutto, mi Grazie. Sono divertito e oggi sono un uomo rinato, Pardo per tutta la vita. Ma è arrivato il bonifico? Mi sembra esagerato. È arrivato il bonifico, Pino? Stamattina sì. Allora festa. Vabbè, allora si può pure parlare bene di Pardo. Mi dà una mano. Parlo da fratello. Parlo. Non per fare una captazio benevolente, ma io credo che la situazione sia meno drammatica di come sembra. E secondo me l'esonero di Pioli sarebbe un errore. Cioè, questa è una squadra che ha fatto benissimo. E quest'estate non ha fatto mercato, o meglio, ha fatto un mercato basato sul tenere Felipe Anderson, che aveva delle offerte, tenere Candreva, questo è Lotito. Lotito ha questa idea, la continuità, rinuncia a delle offerte, questo gli deve essere riconosciuto, però sappiamo dal punto di vista dei nuovi acquisti è latitante, no? Per cui quest'estate il colpo non è arrivato, però insomma secondo me la Lazio alla fine ha vinto le 2 partite in casa che doveva vincere fino a questo momento, non ha una brutta classifica, certo la sconfitta l'altro giorno è umiliante perché non si può stare in campo in quella maniera, su questo sono sì. perfettamente d'accordo, e ha sbagliato anche Pioli, certamente hanno sbagliato. Però tutti. Da lì a parlare di esonero, mi sembra una pazienza, Pierluigi, perché Pioli non dopo viene la stagione normale, viene una stagione super. Ma certo, viene da una stagione super, ha iniziato questa stagione tra alti e bassi, ci sono 2 sconfitte molto pesanti, quella di Verona e quella di Napoli in campionato, che sono 2 sconfitte come hai detto tu umilianti. Mister Mangia, che ne pensa? Ma io penso che come al solito nel calcio si ricorda l'oggi e domani, e di quello che si è fatto ieri se lo dimentica velocemente. Non esiste, ci vuole un minimo di pazienza e dare il tempo anche agli allenatori, alla gente di lavorare, di trovare di sicuro magari una maggiore, o di ritrovare, più che trovare direi ritrovare alcune cose che magari la Lazio ha un po' perso in queste, come ha detto, in queste 2 trasferte. Sì, mi sembra che abbia un po' perso per strada anche Felipe Anderson, per la verità. Ma quando non vanno benissimo le cose, dipende anche spesso magari da qualche giocatore che non è al massimo della sua condizione. Io penso che poi la Lazio si ritroverà, perché comunque ha delle qualità importanti. Senta, qual è la squadra, o meglio il progetto di squadra, perché abbiamo un sacco di cantieri che viaggiano in questo momento in campionato, qual è la squadra o il progetto di squadra che le piace di più in questo momento? Esatto, abbiamo tanti cantieri, sì, è vero, sì. Ma io penso comunque che l'Inter sta facendo delle cose importanti, mi sembra che la filosofia sia quella che aveva contraddistinto nella costruzione della squadra, che ha contraddistinto un po' il primo Mancini, una squadra comunque anche di una, oltre che con qualità, anche di una struttura fisica importante. La Roma, come hanno detto tutti, ha fatto un mercato importante. La Juventus ci sarà sempre, perché ci vuole un po' di tempo e basta. Io penso che siano questi un pochettino più avanti, però poi Napoli, Milan, sono queste le squadre. Il Napoli, chiaro che se il Napoli è quello, riuscirà ad avere la continuità che ha avuto l'altra sera, diventerà una squadra sicuramente molto importante. Eh sì, fatalmente, se il Napoli è quello dell'altra sera, ha ragione quando Pardo ieri che diceva non lo dico, Napoli da scudetto, quello visto con la Lazio, limitiamoci a quella partita. L'Inter... No, ma guarda, quel Napoli lì, secondo me, te l'ho detto, guarda, sono troppo curioso perché ho visto cose che voi umani, cioè al di là dei meriti della Lazio dei quali stavamo parlando continuo, che sono evidenti. Ma, però... ma qual è la cosa che ti ha impressionato di più? Qual è la cosa che ti ha folgorato in questa maniera, Pierluigi? No, l'intensità dei 90 minuti. Io penso che Napoli, una partita così in Italia non sia, era parecchio tempo che non si vedeva. Ma veramente non, una prestazione così per 90 minuti da una squadra erano anni che non si vedeva. Non lo so, la Roma ha fatto una partita eccezionale con la Juve la seconda giornata, però ha avuto, chiaramente l'avversario è diverso, però ha avuto, nei 90 minuti non c'è stato, io penso che anche il Napoli di Mazzardi nelle grandi notti contro il Manchester City per esempio, o contro la Juve, forse con la Juve, ma nella famosa tripletta di Cavani, però ecco, abbiamo visto una cosa che si vede raramente, e quindi sono molto curioso, siccome secondo me il Napoli ha l'attacco più forte del campionato, perché ha 5 giocatori super, tutti e 5, e ha dei problemi difensivi sicuramente che non ha risolto, questo non ci sono grandi dubbi, non è che adesso il Piol sia diventato Beckenbauer o Koulibaly e Franco Baresi, però insomma, sono molto curioso perché il modulo è questo, perché Sarri comunque sappiamo che è un esordiente a questi livelli, e quindi c'è un senso di... non lo so, di come di un Big Bang, di qualcosa di importante che potrebbe succedere. Poi magari adesso pareggia col Carpi e con gli stessi visti, però sono veramente molto curioso. Sì, Davis Mangia, prima abbiamo sentito Mughini che ieri sera era da Pardo, ha detto si è dedicato più tempo a queste quattro vittoriucce dell'Inter che non il tempo che ho dedicato io allo studio della Divina Commedia. Momento incredibile, Mughini, Bonolis, un momento epico. Ecco, penso Bonolis ha sottolineato che lui, avendo studiato legge sul diritto civile e diritto penale, era molto preparato. Guarda, io ti dico la verità, quando l'abbiamo sentito prima, l'abbiamo fatto sentire quando, prima. Quando tu senti, e poi voglio studiare anche De Bortoli, che insomma ieri era a suo agio anche come nei dibattiti televisivi, quelli sulla politica, su Tsipras o sulla Federal Reserve. È bellissimo, a me da appassionato di calcio sentire persone di questa intelligenza, di questa cultura che veramente in punta di fioretto discutono su queste questioni mi esalta, perché certo, proprio secondo me è una dimostrazione di quanto poi questo gioco qui sia trasversale, sia mondiale, sia seguito da tutti e ci siano tutti dentro molte cose in questo, cioè, gioco per me De Bortoli che viene con entusiasmo alla trasmissione, che si diverte, per me è una gioia che non ti posso descrivere, no, ma posso capire, però. E credo che sia una gioia per tutti gli appassionati di calcio, perché vuol dire che non siamo quindi tutti del nostro orticello che è un pezzo della nostra vita e non dobbiamo vergognarci. Il primo a scrivere di questo è stato Nick Corby in Inghilterra, quando fece Febbre 90, Fever Pitch, che è stato il primo libro che ha sdoganato il calcio dall'essere sottocultura, ghetto, 11 cretini che corrono dietro al pallone, questa cosa, l'oppio dei popoli. No, è una parte invece importante di cultura che c'è in tutto il mondo, chiaramente è una cultura pop, non è una cultura alta, non è... Sì, ma comunque è parte però, di noi, è parte della nostra cultura, come la musica, come il cinema, come tutte le cose che ci appassionano e che possono diventare. Dei 40 anni di Gregori, di Himmel, che possono diventare forma d'arte. Ma no, ma è chiaro. Qualcosa rimane fra le Senti, io volevo chiedere altre due cose a Mister Mangia, possono, Piera? La prima sull'Inter, perché spendiamo altri due minuti al di là della Divina Commedia. L'Inter di Mancini, cuore e muscoli, ricorda in qualche squadra del passato chi l'accosta all'Inter di Trapattoni, chi al Milan di Capello, chi all'Inter di Mourinho, sebbene con meno talento. Però la fisionomia è quella. La seconda, a me fa impazzire la storia del turnover. Ma perché in squadre che sono cantieri, come stiamo dicendo, a settembre c'è la necessità di fare turnover? Ma sulla prima, l'Inter è una squadra, direi il termine giusto in questo momento, penso che sia solida. È una squadra che non fa un, non dà grande spazio magari allo spettacolo, ma è una squadra solida, e le squadre solide in genere poi sono quelle che arrivano bene in fondo. Oltre ad avere comunque dei giocatori di qualità, perché secondo me con Dobbiá e Perisic, stando lì, cresceranno, stanno crescendo e cresceranno, e saranno giocatori importanti per l'Inter. Sul turnover non lo so, soprattutto a settembre non lo so, sinceramente mi sembra una cosa un po' forzata, ecco. Cioè, ma soprattutto se un allenatore deve costruire una squadra, se devi costruire una squadra, quantomeno all'inizio punti su quell'ossatura lì, no? A costo di stancare un po' i giocatori, no? No, ma allora un conto è se si nota con lo staff medico e i preparatori che magari qualche giocatore è affaticato, è a rischio, mancherebbe altro. Questo è chiaro. Ma in altre situazioni, secondo me, soprattutto in questa fase della stagione, è una cosa un po' forzata. Capisco magari quando comincia a arrivare la stagione nel vivo e cominciano a vedersi gli obiettivi, si può anche stare una rotazione di giocatori per una questione anche di dosare le energie, ma a settembre mi sembra un po' forzato. Ecco, sì, sono d'accordissimo. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, alla prossima. Ciao. Rispondiamo per Marcello da Verona. Abbiamo due ascoltatori da Verona, Marcello e Carlo. Prima Marcello, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, l'Inter vince il campionato perché è troppo solida. Sì. Questo è già un verdetto. Alla faccia di Mughini, verdetto. Per motivi di per quattro vittoriucce. Quattro vittoriucce, Marcello. Sì. E comunque io sono un tifoso del Napoli, quindi non è che sono interista. Partite molto noiose in questo campionato. Le due squadre che fanno divertire sono il Napoli, e non solo per i 5 gol alla Lazio, ma anche per la partita contro la Sampdoria, e l'altra squadra che sa giocare molto bene a calcio, dove sembra che tutti i giocatori sappiano giocare a calcio, è l'Empoli. Che ne dite? Beh, che ci aggiungerei quantomeno Torino e Sassuolo, così per sì, Sassuolo benissimo. L'Empoli l'ho commentato l'altro giorno con l'Udinese, mi è piaciuto, mi era piaciuto anche contro il Milan. No, l'Empoli gioca molto bene, si è fatto una partita noiosa e non stavo particolarmente d'accordo. Noi abbiamo un gran campionato, posso dire, anzi ve lo dico proprio, abbiamo un grandissimo campionato, molto divertente, molto aperto, molto esperto. È vero che l'Inter è molto solida. Quantomeno, aspetta che non comincio a non sentirti più bene. Facciamo così, abbiamo la borsa e torniamo subito dopo. 800 24 00 24, numero verde. Pagheranno pure per matto, qualche giorno mi porterà al manicomio. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati come ogni giorno. 800 24 00 24, numero verde in questa vigilia di campionato. Carlo da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo parlare un attimo della Lazio, non me ne voglia Pardo, ma mi sembra di vedere un po' un film già visto, quando il Chievo Verona negli 15 anni di Serie A è riuscito a raggiungere la Coppa. Non mi ricordo l'allenatore chi era, però era riuscito a entrare nei preliminari di Champions e poi da lì non è azzeccata più una, praticamente. Poi circa a metà campionato ha cambiato allenatore, è tornato del Neri, ma la situazione purtroppo è lì. Se non ricordo male, il Chievo si era un po' snaturato, nel senso aveva modificato la preparazione per poter partecipare ai preliminari. Sì. E vabbè, sbagliato qualcosa e si è rotto un po' il meccanismo e purtroppo siamo andati in B. Sì, Carlo, però non me ne voglia, non si offenda, però mi sembra che questa Lazio abbia una qualità totalmente diversa nel complesso dei giocatori, Candreva, Parolo. Sì. Ha un punto in più del Napoli, tanto per essere chiari, ha due punti in più della Juve. Secondo me, chiaramente, è una squadra che non ripeterà il risultato dell'anno scorso, secondo me non lo avviciderà nemmeno. Però insomma, mi sembra un orizzonte un po' fosco quello che è stato disegnato. è un bel test quello col Genoa domani, ma insomma è una squadra che può fare un campionato secondo me di medio alto livello. Ma no, ma anche perché mi sembra da che sia una squadra League, qualitativa dell'Europa League, ma nella peggiore delle ipotesi della classifica, ma proprio nella peggiore delle ipotesi, sì, secondo me, eh. Non è cambiato, cioè non ha snaturato tutto rispetto all'anno scorso. Certo, Felipe Anderson sembra fratello in questo momento, no? Discussioni, l'altra sera mancava desapparecendo totale, Andrea, Biglia, De Bai. Sì, possiamo fare un lunghissimo elenco di tutti gli infortunati che la Lazio ha avuto, che non devono essere una scusante, però dal punto di vista dell'organico mi pare che sia una squadra da, come dici tu, da quinto sesto posto quantomeno, perché la qualità è quella. È vero che non si è rinforzata, è vero che ha fatto poco mercato, anche se alla fine Madre è arrivato, però l'organico è no, da... Si può pensare che per esempio quest'anno il Torino possa superarla, ecco, per dirti. Però cioè, in quella categoria lì, secondo me, sì, assolutamente, che possono lottare per un posto in Europa League. Questa è la mia idea. A proposito di Torino, ne parliamo un po'. Arriva la palla di Baselli in mezzo, Mischi, attenzione al rimpallo, Belotti col destro, va in porta, deviazione, rete, Quagliarella 2-0, doppietta di Quagliarella, è l'uomo che sta trascinando il Torino ai vertici della classifica campionato di Serie A. Forza vecchio, cuore granata, forza vecchio, cuore granata, forza vecchio, cuore granata, forza vecchio, cuore granata. L'obiettivo è quello di restare più in alto possibile, è normale che le vittorie, i risultati positivi e il bel gioco ti danno tanta fiducia, ti fanno lavorare molto meglio, considerando che ci sono tanti giovani. Perché Torino è solo Toro, Toro, al Philadelphia forza Toro, Toro, essere granata non è un gioco, ma una filosofia di vita. Devo fare i complimenti, oggi il primo tempo abbiamo anche fatto due gol, potevamo farne molti di più e tutto attraverso azioni pulite, con grande coerenza tattica, bravi. È una leggenda mai finita. Torino è stata e resterà granata. Tra due punti, quindi puntiamo. Stiamo scherzando naturalmente. Torino è stata e resterà scherzando naturalmente, però lì tra due punti, secondo in classifica. Pierluigi, sai che c'è un tuo abituale compagno di banco di telecronaca? Chi è? Il professor Cravero? Il professor Cravero, Roberti. Oh, buongiorno Cravero. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ho mangiato l'altra notte a Napoli la classica cucina partenopea, abbiamo preso bagna cauda. Bella bagna cauda e abbiamo preso il plin. Vogliamo spiegare a chi non lo sapesse cos'è il plin, Cravero? No, spiegalo tu che in fatto di culinario sei molto più di me. Ecco, il plin è praticamente il gesto, no, del dito che a mano disegna il piccolo raviolo, giusto? Esatto, perfetto. Ecco. Quindi ci proprio siamo il plin, ma quello dice la parola stessa, insomma. Sì, poi a Napoli ha tutto un altro fatto. No, a Napoli abbiamo mangiato alla grande fino a parte europea, però insomma, tornando al calcio, il Torino sta facendo delle cose incredibili, ribadisco, le sta facendo grazie a delle scelte che spesso sono sembrate impopolari. La piccola leggenda di questo Toro è nata nei giorni in cui Cairo ha per esempio venduto Cerce Immobile e con quelle due cessioni che si sono rivelate assolutamente azzeccate è riuscito poi a rafforzare la squadra e per esempio a comprare un certo Bruno Perez o a fare ulteriori investimenti come quelli di quest'anno con Belotti, con Baselli, a rigenerare un giocatore come Quagliarella. Quindi è un mix, come direbbe il nostro amico Andromerco, un mix di cose fatte molto bene. Un argomento che non ammette neanche tanto contraddittorio. A tutti, capitano, a tutti in questo momento piace il Torino? Sì, ma a tutti, ma io penso non so gli juventini, ma gli altri. No, sono d'accordo, ma perché il Torino gioca bene, ha fatto le scelte giuste, ha fatto degli investimenti, 5 milioni per Baselli, l'investimento da Toro, un investimento di andare a prendere un buon giocatore, un prezzo direi abbastanza abbordabile, poi valorizzarlo. Come diceva Pier, Quagliarella, che comunque stava giocando poco nella Juventus, hanno avuto il coraggio di puntare su di lui. Quagliarella è un buon giocatore, a me non mi sorprende assolutamente l'esplosione o la riesplosione di Quagliarella, perché è un giocatore vero. Devo dirti che poi però è figlia, questa classifica di quest'anno è figlia di anni precedenti, dove Ventura ha dato un gioco a questa squadra, ha dato un'intensità, ha dato un'organizzazione, quindi assolutamente non mi stupisce la sua classifica. Poi è chiaro, ci sono squadre più con una rosa più ampia, però questa è una squadra che deve e può puntare assolutamente all'Europa League. A me sorprende invece di più la rivitalizzazione dei giocatori. Ne ho parlato tante volte con Pardo, perché l'elenco Quagliarella è facile dire, è arrivato al Toro, però era uno che qualcosa aveva combinato, anzi esatto, molto aveva combinato anche da altre parti. Però io quando vedo Maxi Lopez, che era uno totalmente perso, incredibile, no? Quando vedo giocare Maxi Lopez nel Torino dico, vabbè, a questo è quello che quando era ragazzino con i capelli lunghi si diceva in Argentina che era uno di quelli buoni. Sì, cioè, sì. No, ma poi c'è mezzo fallimento alla Sampdoria, al Chievo utilizzato pochissimo, viene al Torino l'anno scorso e fa la differenza. Ce ne dimentichiamo un altro, Padelli. Il portiere che... Beh, possiamo aggiungere Glick, che era... Nel momento che è arrivato al Torino non aveva mai giocato titolare in nessuna squadra, invece lui ci ha creduto e adesso vi devo assicurare è un buonissimo portiere. Sì, ma l'elenco in questo caso può essere lungo, c'è la meglio gioventù e sottolineiamo tutte le volte come il Torino sia campione d'Italia, certo, primavera, e poi appunto giocatori rivitalizzati. Adesso Ventura scherza, no? Gli piace scherzare, beh, non stupitevi di noi, leggo oggi, oppure hai sentito, no, Pierluigi la battuta dell'altro giorno, puntiamo, adesso siamo qui, a due punti dall'Inter, dove volete che guardiamo. A mister di piedi. È facile, sai, ma se cominciano ad arrivare risultati, cioè è anche facile correre più leggeri, no? Ed è quello che il Torino sta facendo, ed è per questo che è così pericoloso. Guarda, Roberto conosce benissimo la storia granata, l'ha vissuta, l'ha incarnata, e quindi mi è chiaro che stiamo parlando di una qualcosa di fragile e di molto affascinante, e ho la sensazione che spesso il Torino nella sua storia sia stato in qualche modo prigioniero del passato, perché è un passato estremamente glorioso, perché è un passato letterario, romantico, quindi anche proprio banalmente i miei amici, anche qualche collega di voto del Torino, c'era sempre questa proiezione di un passato che non sarebbe mai più tornato, e poi invece quando si torna a vivere il presente, poi rispondono tutti, risponde la società, risponde la squadra, risponde il pubblico, che ovviamente è una grande piazza, non c'è da discutere. Torino è una grande città, Torino sappiamo che Torino città è divisa, ma a Torino città la componente dei tifosi granata è molto molto grande, mentre la Juve pensa ovviamente in tutta Italia. E quindi stiamo parlando anche numericamente e sentimentalmente di un grandissimo pubblico che si fa sentire. E quindi, però ecco, la sensazione è questa: vivere il presente, perché tante volte perché il presente non era un granché, perché il passato invece è leggendario, mi sembra che il tifoso granata sia rifugiato nella letteratura, che sembra, però dal punto di vista letterario mi sembra perfino sparita, Roberto, la leggendaria sofferenza, attitudine alla sofferenza granata. Mi sembra che il Torino stia abituando a sorridere tutte le volte. Poi però che noi tifosi, veri tifosi, nel momento che sparisce quella sofferenza un po' stiamo male. Davvero? Alla fine, come se ti mancasse qualcosa, Sì, ci manca qualcosa, quindi alla fine sì, godiamo per questo benessere, però ci piace soffrire anche nel benessere, quindi noi dobbiamo soffrire, ce l'abbiamo dentro di noi, vabbè, ma la storia del Toro dice questo. Cioè abbiamo avuto, penso, una delle squadre più forti che siano mai esistite ed è morta Superga, e quindi siamo ripartiti da zero. Abbiamo vinto uno scudetto dopo 27 anni con Gigi Radice e poi siamo ripartiti da zero, c'è stato un fallimento per ripartire un po' da zero, quindi questa storia, questa sofferenza a noi piace molto, ci stiamo bene in quella. Però se ogni tanto ci fosse un po' di benessere, un qualche vittoria, non messaggio è... al presidente Cairo: vendiamo subito Quagliarella, Maximovic, Glick, no, Baselli, no. Tutti in vendita. La sofferenza in realtà c'è stata anche qui, perché il grande campionato dell'anno scorso del Torino, e poi le imprese, Bilbao, il corretto, nasce col gol di Pirlo all'ultimo minuto del derby, poi mi ricordo, la striscia di conseguenza subito dopo. Quello era un derby che il Torino doveva perdere 4-0 prima di cominciare, no? Perché non c'era proprio partita sulla carta. Invece fu un derby equilibrato che il Torino rischiò anche addirittura di poter vincere, perché era 11 contro 10. Prende questo gol all'ultimo secondo, e quindi la classica cosa da Toro. E poi però fa delle cose straordinarie. E lo scorso anno, secondo me, poi alla fine, se guardiamo la classifica, è mancato pochissimo per tornare in Europa League. Certo, il fatto di non giocarla quest'anno può essere un vantaggio, perché insomma è evidente che se non hai 27 giocatori, 25 giocatori, no, ma livello in rosa, non vai in giro per l'Europa ogni settimana. È meglio non averla, dai. Sì. È meglio non averla, cioè ti dà un vantaggio. Insomma. Poi è sempre meglio giocarla, perché il Torino potrebbe fare così: un anno fa l'Europa League, un anno la fa e una la prepara. Beh, lo firmeremo tutti, penso. Non è che alla faccia sofferenza. Questo contratto e lo facciamo alla faccia della sofferenza. Sei a penalia, Roberto. Venaria Reale, sì. Non stai in crocetta, perché c'è questo pranzo di tutti. Guarda, il venerdì che fai pranzo con Zaccarelli. Sì, ma non facciamo pubblicità, Piero. No, non facciamo pubblicità. Non facciamo pubblicità. Dici i componenti del pranzo. No. La prossima volta, dai. Tutti ben accetti, basta che comunque devi essere un protettore. Grazie, Roberto. Ciao a tutti. Ciao Roby. Traffico subito. Però il pubblico è un po' moscetto. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Tutti convocati. Dunque, prima di parlare con gli ascoltatori, Pierluigi Pardo, sentiamo una voce di Florenzi, che è tornato su quell'argomento che mi fa impazzire, ne parlavo anche prima. Del turnover, cosa ha detto Florenzi? È mancato che dovevamo cercare di fare il terzo gol per portare a casa la vittoria. Noi giochiamo sempre per quello. Il mister fa solo delle scelte, noi dobbiamo essere bravi solo a farci trovare pronti e cercare di fare quello che ci chiede. Beh, dati uno come Florenzi, mai lo levo nella vita, per il momento, da qui fino a dopo Natale, salvo infortunio o squalifiche. Comunque, Massimo, magari il terzo gol non è arrivato anche perché Dzeko stava seduto. Massimo Roma, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno Carlo, buongiorno Pierluigi. Buongiorno. La mia è una domanda un po' abbastanza semplice. Io sono un tifoso juventino, mi sembra che quello che stiamo verificando in questo momento alla Juventus sia una situazione molto strana. Sono più giocatori in infermeria che in campo. Non credete, o quantomeno ho sentito, che questo sia un problema di preparazione? E quello che mi sembra strano è che cosa potrà fare la società per ovviare a questo problema? Perché qui sono tutti rotti, a quanto pare. Grazie mille. Grazie a lei. Beh, difficile saperlo, no, Pierluigi, però quando ci sono così tanti indizi, magari qualche cosa di sotto c'è. Sì, non è la migliore partenza né dal punto di vista della classifica né dal punto di vista degli infortuni. Però poi alla fine, per esempio, Morata si è chiarito che non ha niente, forse potrebbe anche giocare domani. Alla fine la cosa si è risolta subito, insomma, questa infortunio addominale e via parziale addominale è sparita. Io ribadisco quello che ho detto domenica, cioè secondo me è ancora un pochino presto per poter, i numeri sono ancora non così grandi per poter fare per poter arrivare a delle conclusioni statisticamente precise sul fatto che la Juve ha sbagliato preparazione. Qualche indizio c'è, sicuramente potrebbe aver pesato la Supercoppa, che sappiamo comunque insomma è una discreta scocciatura in senso negativo, voglio dire, ovviamente anche una bella opportunità, poi la Juve tra l'altro l'ha anche vinta contro la Lazio, già si è portata a casa il primo trofeo della stagione, però comunque è chiaro che dal punto di vista della preparazione poi quella che ha iniziato per ultima è quella che ha iniziato per ultima, e quindi questo può pesare, e poi c'è il cambio di tutto, quest'anno la Juve ha cambiato tantissimo, quindi qualche movimento sussultorio è logico. Francamente, cioè, per ora siamo ancora in un ambito non patologico, è ancora presto per poter arrivare. Siamo sempre agli indizi, però cominciano ad essere molti. Enorme pressione, perché per dirti adesso, Juve Frosinone sembra abbastanza scontata, ma poi c'è Napoli. Sì. L'Inter ha queste due partite in casa, insomma, poter fare rapidamente due punti. Se la Juve dovesse perdere a Napoli, insomma, arriverebbe al 4 ottobre alla partita col Bologna con una distanza Enorme, sì, sì, no, certo, certo, certo. Il momento è delicatissimo. Il momento è delicatissimo e l'infermeria ancora non si è svuotata del tutto. Matteo, provincia di Verbania, buongiorno. Buongiorno signor Genta, buongiorno, buongiorno signor Fardo. Io vorrei togliere questo funereo dell'ascoltatore, tono funereo dell'ascoltatore di prima. Mughini ieri a Tiki Taka ha detto ci davano per stecchiti, invece noi ci questo tono funereo lo vorrei togliere. C'è anche Leonardo anche... però che dice che il ciclo della Juve volge al termine o quantomeno a un'interruzione. Non penso proprio, perché io guardando ancora uomini classifica, cioè io vorrei dire al signor Mancini che noi vinceremo il campionato con 10 punti di vantaggio sulla sua squadra. Ulla. Io sono il più ottimista degli ottimisti. Roberto Mancini, sei lì? E poi ti stai ascoltando. Non ho paura del signor Mancini. No, no, ma mica c'è da aver paura. E poi volevo fare i complimenti al signor Pardo, l'unico vero telecronista scelto per FIFA 16, che non vedo l'ora. Complimenti, signor Pardo. Siamo proprio ormai, siamo all'outing più totale. Marchette, sì, siamo in gergo, si dice, di attività collaterali. Quindi adesso tu devi dire che sei d'accordo con l'ascoltatore che la Juventus vincerà il campionato. Roberto Mancini, sei lì? Chiamaci. No, io sono convinto. Con 10 punti di vantaggio sull'Inter. La Juve c'è ancora, per me la Juve c'è ancora. Ma certo, lo vincerà. Vediamo. Non sono così sicuro, perché stanno succedendo delle cose che secondo me rendono meno probabile questa ipotesi, però non credo proprio che si possa considerare la Juve fuori gioco. E tra l'altro c'è un miglioramento, nel senso che poi quello che è successo negli ultimi giorni va in una direzione di sono arrivate due vittorie, no? Insomma, se parliamo, allora faccio come Mughini: se spendiamo tutte queste parole per quattro vittoriucce, anche la Juventus ha messo insieme in fila due vittorie, una col City e l'altra col Genoa, tutte e due in trasferta. Mica male. Ciao Pier, buon viaggio verso Udine. Ci sentiamo domani alle 2. A proposito, domani saremo a Expo. Andiamo a Expo anche domani e dopodomani pure. Ammazza. GR 800240024, torniamo dopo. Ecco, a proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia... La radio poi si cazzeggia. No, sì. Tutti convocati. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo le dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18.30. Solo su Radio 24. Questo non credo. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Tutti convocati. 800240024, tutti convocati naturalmente. Abbiamo convocato Enrico Currò da Repubblica. Ciao Enrico. Ciao. Ciao, e ha risposto alla convocazione Marco da Milano, che sentiamo subito. Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Niente, io sono tifosissimo Juve, però quest'anno non mi sto divertendo per niente, nel senso che il gioco comunque, indipendentemente dai risultati, lascia molto ma molto a desiderare. E niente, volevo fare i complimenti invece al Napoli, perché rivedo lo spirito di squadra, l'ordine, la fluidità del gioco, che secondo me era proprio della prima Juve di Conte. Ah, sei d'accordo Enrico? Ma mi sembra un po' presto, siamo all'inizio, aspettiamo ancora un po' a dare queste valutazioni, perché si possono poi cambiare opinioni di giornata in giornata. È chiaro che la Juventus ha cambiato parecchio, ha perso tre giocatori che non erano tre giocatori qualsiasi, e sarebbe stato difficile sostituirli per chiunque. Direi che il vero aspetto inquietante è un altro, e cioè gli infortuni. Sì, la Juventus è una squadra di fatto in costruzione, quindi ingiudicabile anche dal punto di vista del gioco. Mettiamoci appunto il fatto che ha avuto praticamente l'infermeria sempre piena e quindi non può essere sorprendente se non girano già a mille. Mi sembra anche ci sia una condizione atletica non brillantissima da parte della Juventus, questo vale per tutti. Squadra in costruzione anche il Milan, che penso starà andando a vedere a Udine, immagino. Sì, il Milan. È una squadra in costruzione, è una squadra che però ha un grosso vantaggio a differenza della Juve, e cioè non può fare peggio dell'anno scorso e direi anche dell'anno prima, quindi insomma qualunque cosa venga è meglio. In più ha trovato un centravanti, un attaccante, diciamo non è proprio un centravanti, può fare anche la seconda punta volendo, è un giocatore molto duttile, sì, secondo me, che è Bacca, che è dai tempi di Ibra non si vedeva, non è Ibra, non è forte come Ibra, però è il giocatore, l'attaccante più forte che si sia visto negli ultimi anni a Milano, certo, o meglio quello più efficace. Quello più efficace, ma possiamo dire che comunque il Milan è una squadra nella sua follia, nella sua imprevedibilità anche divertente, nella sua confusione tattica, nella sua confusione di risultati. Adesso ovviamente serve non prendere gol, ordina Mihajlovic, serve trovare una dimensione più stabile, però in questo momento il Milan è qualcosa che scopri di partita in partita, nel bene e nel male. Sì, sì, direi che hai perfettamente ragione su questo, è una squadra tutta ancora da capire, però ripeto, ha un vantaggio, il vantaggio è quello di qualche punto fermo e di un nucleo di italiani che in un campionato dove ormai gli italiani sono dei panda, indubbiamente è un vantaggio. Sentiamo cosa ha detto Mihajlovic su Balotelli. Balotelli, Berlusconi tra le altre cose ha detto che può fare anche il trequartista. Se lo dice presidente, allora può fare anche il trequartista. Dipende sempre, tutti possono far tutto, con le caratteristiche diverse, con interpretazioni diverse. Lo può fare. Anche Nagy lo può fare trequartista, ma con caratteristiche diverse, con anche interpretazioni diverse. Anche portiere. Anche portiere, come detto. Beh, portiere magari no, Diego Lopez trequartista non lo vedo, ma non vedo neanche Balotelli, io a dire la verità. Ci aspettiamo però di vederlo in campo, Enrico, stasera. Ma guarda, in realtà Mihajlovic scioglieva stamattina il dubbio che lui si porta dietro, che è un dubbio legato non tanto allo stato di forma di Balotelli e di Luis Adriano, perché poi di questo stiamo parlando, se gioca non credo proprio che giocherà da trequartista, e cioè se sia opportuno con tre partite così ravvicinate avvicendare appunto Luis Adriano, che qualche segno di stanchezza lo aveva evidenziato. Più che altro il dubbio di Mihajlovic è un altro, il dubbio se trasformare, mettendo Balotelli dal primo minuto in campo, la partita di stasera nella partita di Balotelli, cioè ricaricarlo di quelle responsabilità, ma più che di responsabilità, di quel ruolo che invece Mihajlovic non vuole che Balotelli abbia. Mihajlovic sta normalizzando, sì, Balotelli, la normalizzazione passa attraverso un trattamento, diciamo così, anche mediatico come gli altri. Sì, sì, sì, sì, no, ma è così. Però insomma, ha giocato una buona mezz'ora con l'Inter, una mezz'ora al servizio della squadra contro il Palermo, l'evoluzione fisiologica lo può vedere in campo magari per un tempo, o no? Sì, sì, ma per carità, può darsi anche che giochi tutta la partita, per carità. Non è però questo il punto, cioè il punto è innanzitutto che sicuramente sono più complementari come coppia di attaccanti Bacca e Luis Adriano, sì, si è visto. E poi che Balotelli, che potenzialmente è più forte di Luis Adriano, secondo me, però va appunto maneggiato con molta cura, perché se adesso riesce a imbroccare bene, se sbaglia è perso per il Milan e per la nazionale. Sicuro, sicuro. Se c'è una cosa che si può dire di Mihajlovic è che non si fa mezzo problema a buttare in campo i ragazzini. Abbiamo visto con Eli che poi è stato squalificato, l'abbiamo visto ora con Calabria che ha lasciato tutti a bocca aperta l'altro giorno. Ha una linea difensiva verdissima, con Calabria, Romagnoli e De Sciglio, che sta provando a uscire dai suoi problemi. Se funziona, è una linea difensiva che può andare avanti 10 anni almeno. Sì, De Sciglio per la verità ha avuto l'anno scorso, è passato un po' sotto silenzio, ma De Sciglio ha avuto uno dei peggiori infortuni che un calciatore possa avere, e cioè la fascite plantare, in pratica non puoi correre, questo chiaramente è impossibile per chiunque, no? Se fa il calciatore. Quindi diciamo che la ripresa di De Sciglio è una ripresa legata al fatto che ha risolto i suoi problemi fisici, perché tecnicamente è un giocatore che nessuno ha mai messo in discussione. In più è duttile, gioca indifferentemente a destra e a sinistra. È vero, il Milan ha a livello potenziale 3 giocatori su 4 che possono garantire per età e per personalità un futuro. Sì. Sentiamo la voce di Allegri che ha parlato oggi prima di questo Juventus Frosinone, in cui ha detto: Buffon starà fuori un turno di riposo, gioca Neto, e però partita, vabbè, su cui la Juve non ha molte alternative, eh. In questo momento siamo indietro, bisogna giocare partita dopo partita. Domani abbiamo un'altra partita che dobbiamo vincere, innanzitutto perché bisogna ritornare a vincere in casa, e poi sono 3 punti per iniziare piano piano a scalare la classifica. Intanto l'obiettivo di domani è quello di cercare di vincere per andare nella parte sinistra della classifica, e poi piano piano, con calma, tanto non è che anche domani, con la vittoria di domani, possiamo andare a testa della classifica. No, questo no, ma soprattutto c'è una partita importantissima nel weekend contro il Napoli. Sarri alla Juve ancora non pensa. Ma a me della Juve in questo momento non me ne importa assolutamente niente. Io ho la partita di domani da affrontare, e domani, parlando a 4 occhi e con grande onestà con i giocatori, qualcuno mi dirà che è ancora stanco e starà fuori quello lì. La formazione non sarà assolutamente fatta pensando alla prossima partita. Noi domani abbiamo una partita difficile, e abbiamo una partita in cui dobbiamo dimostrare mentalmente abbiamo fatto dei progressi. Quindi sostanzialmente Sarri dice: o qualcuno sta male o te lo scordi che faccio il turnover, in maniera estremamente saggia. Un'ultima cosa, Enrico Currò: Pardo è rimasto folgorato dal Napoli di domenica. Tu? E io sono rimasto più folgorato dalla Lazio di domenica che dal Napoli, però è vero certamente che il Napoli sta sfruttando al meglio da un paio di partite le caratteristiche degli uomini che ha, e questo è molto importante, perché è un segno di grande pragmatismo da parte di Sarri, che secondo me è un allenatore che ha un altro grande pregio a livello mediatico, così come Mihajlovic. E cioè dice le cose, quello che pensa, dice la verità senza stare a preoccuparsi troppo delle conseguenze. Mihajlovic in questo al Milan sembra quasi un extraterrestre, dopo che eravamo abituati da anni a una situazione nella quale, non solo per quello che dicevano gli allenatori ma per quello che dice abitualmente la società, si dipingeva una realtà diversa da quella che è. Sì. E in questo senso Sarri e Mihajlovic riescono a dare quantomeno più credibilità alle conferenze stampa, che sono diventate un po' stantie oggi. Grazie Enrico, buon viaggio. Ciao Enrico Currò. Sì, è vero, questo è verissimo. Sarri ha sempre qualcosa da dire, esattamente come Mihajlovic. Allora, io faccio Carlo D'Arezzo, le chiedo un attimo di pazienza, perché abbiamo, ed è un enorme piacere, l'allenatore campione d'Europa di basket, tricampione d'Europa di basket, Sergio Scariolo. Buongiorno coach, grazie. Buongiorno, grazie a voi. Permetti innanzitutto di fare i complimenti, un sacco di complimenti, perché una volta è difficile, 2 è difficilissimo, 3 è qualcosa che entra nel libro sacro, no? Grazie, sì, effettivamente questa è stata un po' speciale, perché avevamo moltissimi giocatori fuori, dei più importanti, non era per niente previsto che potessimo arrivare fino in fondo, invece pian pianino siamo cresciuti e abbiamo giocato con molta intelligenza e molto sangue freddo i minuti importanti delle partite, soprattutto in quarti e semifinale, e siamo arrivati in finale dove abbiamo giocato una partita buonissima dall'inizio alla fine. Abbiamo anche vinto, forse addirittura la finale, con un punto più di facilità di quanto pensassero. Di quanto pensassero tutti, vista la Lituania che era arrivata fin lì, ma mi sembra siate stati bravissimi a spegnerla nel primo quarto, anche usando quelle difese tattiche che a me sarebbe tanto piaciuto vedere anche nell'Italia. E nel primo quarto, anche all'inizio del terzo quarto, che non è mai stato, forse per campionato, un nostro momento particolarmente brillante, viceversa

a posteriori, diciamo che quando si vince il riconoscimento è molto più per i giocatori che per l'allenatore, e viceversa la responsabilità sono quasi sempre molto più per l'allenatore che per i giocatori. Per cui diciamo che assolutamente c'è solo guardare, diciamo, godersi il momento e già pensare, guardare avanti e pensare alla prossima sfida. L'ultima cosa che le chiedo, coach, è l'Italia che ancora si duole, abbiamo sentito in questi giorni anche Danilo Gallinari, sentiremo Beninelli, si duole per come è finita. Siamo rimasti delusi, la mia impressione è che non avessimo una difesa abbastanza forte ed organizzata per essere da titolo, però questa è la mia impressione. Ma senz'altro l'Italia è vero che era molto più forte offensivamente che difensivamente, però devo dire la verità che il potenziale di tiro da tre punti della squadra, il talento individuale nell'uno contro uno di alcuni suoi giocatori, da Gentile a Danilo a Marco che è nominato, era talmente grande che in una partita secca, come è successo con noi, mettendo più di 100 punti, potevano veramente battere chiunque. Quindi secondo me è stato comunque un passo avanti rispetto al passato. Chissà, diciamo, che il futuro non permetta già dal preolimpico un altro passo avanti per poter consolidarsi anche in quelle altre parti del gioco tanto decisive per il risultato che ancora possono migliorare. Coach, grazie, complimenti di nuovo. Sergio Scariolo, grazie, allenatore campione d'Europa con la Spagna. Grazie. Grazie a lei. Allora, Carlo da Arezzo, grazie per l'attesa, ha sentito il coach campione d'Europa, Sergio Scariolo con la Spagna. Simone da Prato, omonimo di Pianigiani, speriamo la prossima volta di sentire Simone Pianigiani, coach campione di Europa, olimpico, non lo so. Carlo, dica. No, io sono tifoso juventino. Dica. No, ho sentito che la Juventus la mette male, no? In questo momento, giustamente. Però penso che... Dipende da cosa intende. Se intende il pronostico a lungo termine, secondo me rimane... A lungo termine rimane la favorita per lo scudetto, secondo me, con la Roma. Ma io mi ascolto tutti i giorni, non mi sembrava che fosse così. Comunque... Io penso che un pareggio, una sconfitta, una cosa può capitare nell'economia di un campionato, no? Può capitare sia all'inizio che anche a metà, sì. Oppure alla fine che è ancora peggio, sì. Quando conta di più. Sì, questo è inevitabile, sì. E poi penso che anche la Juventus ha vinto perché c'è anche una società dietro, non è solo... per i vari Pirlo, Tevez. Guarda, è raro vedere delle squadre, Carlo, è raro che vedere delle squadre, e questo vale per tutti gli sport, in grado di vincere se non c'è una società strutturata alle spalle. Questo è estremamente raro e vale per tutto. Simone da Prato, faccio solo in tempo a salutarla. Simone? Buon pomeriggio, ci sentiamo domani? Siamo all'Expo. Sì, non c'è problema. Grazie davvero, grazie. Ci sentiamo domani allora, anche con Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchiori in redazione. Ciao a tutti.